abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati, di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Pardo, vai avanti tu. Sì, non è proprio il mio genere, però. Non è il tuo genere, febbre, eri piccolo, forse non era ancora nato. Febbre del sabato. Sì, diciamocelo un po', ma no, io. Che? Devo 84. Come va? Molto bene, lei? Bene, bene. Tutto a posto. Febbre, febbre da sorteggio? No, febbre da sorteggio è stasera. Io sto parlando di sabato, febbre da sì. Roma Inter. Ah, certo. Più quasi, ognuno ha la sua febbre. La Roma c'è la doppia, perché sia per il sorteggio che la Juve Napoli che per Roma Inter. Mentre l'Inter ha una febbre sola, che è quella della riprova. Allora, il grande acquisto, che campagna acquisti abbiamo fatto anche noi, altro che Inter, altro che Roma. Luchino Telese, buongiorno. Wow. Nel tono della puntata. Spero che Tommaso Labate non si sia spaventato di questa gabbia di matti e sia fuggito. No, ragazzi, sono sempre qui con voi. Tra l'altro, distratto dall'interpretazione di Pierre di Staying Alive, stavo per beccare una ZTL. Tu dici a Milano, a Roma, no, una ZTL a Monopoli. La multa da Monopoli era proprio intollerabile. No, no, io invece sono fermato in tempo. Stavo componendo. Sento un cazzo, sembri Parenzo. A Monopoli c'è una grande ZTL, un posto molto Claymore, molto Claymore, che mi ha molto ispirato. Non posso dire di più, però Monopoli tornerà nella mia vita. Vabbè, adesso sto hai messaggi in codice. Non ho amanti di Monopoli, voglio dirlo. Io non so nulla. No, ma è una cosa artistica. Va bene. Luca Telese, Luca, ci sei? Sì, presente. Ah, ecco, non hai più il telefono di Pardo o quello di Parenzo. Hai recuperato il tuo. Stavo guadagnando un viva voce. No, viva voce alla radio, ma dai, ma ti licenziamo su. Ecco, volevo ben dire. Tommaso Labate, ti fa paura andare a Roma? No, non mi fa paura perché penso che la nostra sia una squadra attrezzata come quella della Roma. Io, guarda, credo che possa finire con un pareggio che fa contenti tutti in vista di questa poi sosta che consentirà a tutti noi di tornare al lavoro tranquillissimi con quei 4 punti in classifica che sarebbero platino, non oro, platino. Sì, cominciamo con gli 0-0, gli 0-0 politici, diplomatici, no, dai. Ragazzi, 0-0 Roma-Inter, firmo davanti al notaio, quello della Rai, quello con i baffetti. Ma se c'è una cosa certa è che non finirà 0-0 con Di Francesco e con Spalletti, con quest'aria di faida che c'è nell'aria. Comunque vada, sarà o 1-2, io che penso. Oh, finalmente, Luca, ma un po' di adrenalina. Basta questi pensionati dello 0-0. Ma lui Spalletti, che è carogna fino in fondo, viene qui per fare 3 punti e ha ragione. E non è che la Roma è lì per offrire le terga, anche perché la Roma in questo momento mi sembra la squadra più sottovalutata del campionato. avevano pronosticato sconfitte, catastrofi. Per ora, fra le grandi, è quella che ha ottenuto il risultato migliore. Certo, l'abbiamo sottolineato tutta la settimana, io e Pardo. Sono, siete una lodevole eccezione, ma ricordo sconcerti, ricordo firme importanti, l'organico ridotto. Io ho visto un Atalanta ad altissimo livello, Papu Gomez era molto ispirato, e quindi per me quei tre punti della Roma sono una grande partenza. Assolutamente, sono stati il risultato del weekend, su questo io e Pardo siamo d'accordo. Sì, io avevo, devo dire la verità, ho puntato il risultato di Capuano, quindi ho giocato un po' su di lui, aveva messo uno, ma anch'io ero per l'uno, e pensavo, ma soprattutto perché ho visto la Roma giocare col Celta Vigo, è vero con la squadra B, ma insomma, mi sembrava complicata, e poi oggettivamente penso che l'Atalanta sarà un po' indebolita rispetto all'anno scorso, ma sia sempre competitiva. La Roma ha preso tre punti importantissimi, li ha presi attraverso un'arma che forse è quella meno prevedibile, quella meno scontata, che è quella della sofferenza, che comunque nel calcio è sempre qualcosa. Poi è ovvio, ieri si spende quel palo alla fine, la partita poteva anche girare, però la Roma poteva anche fare 2-0 in avvio di ripresa, questo pure da detto. Quindi il risultato alla fine ha sempre una sua logica. Tra le grandi era quella che aveva l'impegno più difficile ed è quella che ha saltato l'ostacolo più alto. È inutile stare però lì. Qualche dubbio comunque rimane, secondo me, anche dopo quella partita. Ma i dubbi rimangono e rimarranno anche dopo questa gara che ci aspetta. Tommaso Labate, hai preso appunti, hai preso nota? Sì, ho preso nota. Io però mi mantengo tatticamente sempre nel dire che Roma-Inter può finire 0-0. E ovviamente poi se dovesse finire in un risultato che non è né X né 1, per tutte le partite dell'anno, ivi compresa un Inter al Bino Leffe di Coppa Italia, dirò che secondo me finirà 0-0. Senti, ma ti sei dato una spiegazione della ragione per cui non riuscite a prendere nessuno sul mercato? Anche Schick adesso sta volando verso Roma, per l'appunto, perché la Roma offre più grano rispetto all'Inter. Sono appunto tempi di austerity all'Inter del colosso Suning, continuano a dire: oh, se si vende si compra, se no si sta così. Questo è abbastanza pronostico. La cosa di Schick mi sta sorprendendo, ma mi ha sorpreso, mi sarò distratto io in vacanza, l'aver appreso dai giornali che Pellegri e Salcedo, due giovanissimi di cui avevamo magnificato l'acquisto proprio con te, Carlo, e con Piera, tutti convocati, in realtà non sono stati acquistati dall'Inter. Mi sono sentito un pochino come quando tu compri una nuda proprietà, muore l'ultra centenaria che sta lì, poi scopri che non solo risorge, ma vuole anche di nuovo l'appartamento, capito? Quindi mi sono sentito in questa specie di limbo abbastanza strano. La batte è il numero uno, ragazzi. La batte è grandissima forma della nuda proprietà di Pellegri. La nuda proprietà di ha nominato a Marina Vittoriosa Ionica, quindi capisci, è il re della Labate, grande qualità. No, anche a Telese, insomma, sono arrivati e sono andati. Ci siamo trovati pubblicamente qui o privatamente al telefono, perché io e Telese ci chiamiamo come due amanti furibondi. Ma parliamo dell'Inter e di Pellegri. Poi parliamo alle spalle di Labate, di Pardo, insomma, normale. Siamo d'accordo sul fatto che la Roma è fondata su una lunga serie di scommesse, e soltanto se queste scommesse verranno vinte tutte, allora ne parliamo e possiamo dire la Roma è qui con le altre. Giusto, Luca? Ha riassunto bene il nostro pensiero? Assolutamente sì, però siccome proprio per fare cenno a quella conversazione privata, a parte le cattiverie sull'Abate, dicevamo e che Pardo anche, Di anche Francesco era stato proprio stroncato dalla critica, giudicato uno, ma questo è immaturo, questo non sa far girare una grande squadra, ha accettato un mercato al ribasso, e io ti dicevo, guarda, secondo me Di Francesco va lì, ha una dote che nessun altro ha, anche di grandi allenatori che sono passati per Roma, più blasonati, forse più forti, conosce quell'ambiente, sa che cos'è quel tritacarne, ed è partito alla grande fregandosene. Questa mi sembra proprio la prima grande qualità. La seconda cosa, avevano immaginato, sarà una squadra sbilanciata in attacco, sarà una squadra zemaniana che incassa dei gol. Invece la cosa interessante della partita appassionante, devo dire, bella per chi ama il calcio, di Bergamo, e che la Roma ha proprio combattuto col coltello fra i denti sui palloni difendendo l'1-0. Ecco, questa è un'altra cosa che ti dice: quando c'è un cliché giornalistico devi buttarlo nel cesso e immaginarti che per capire non ti serve. No, mi piacciono tutte queste certezze di Telese, che un mese fa era panico, adesso sono diventate certezze. Questo ve lo dice il sottoscritto, che appunto è teleamante di Luca Telese. Ci fermiamo per il traffico in questa gabbia di matti, restate con noi, e se volete entrare a vostro rischio e pericolo in questa gabbia di matti, presenti, 800 24 00 24. Traffic subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Tutti convocati. Vedo che anche i signori del traffico hanno avuto un po' paura a rimanere nella gabbia di matti, tralasciando un incendio che mi sembra sia in corso nella zona di Crotone, che insomma sarà un fatto di cronaca che apprenderemo dai GR. Dove eravamo rimasti? Alle certezze di Telese, capito? Parder abate, un mese fa era terrorizzato, adesso dice, dopo la vittoria di Bergamo, siamo una squadra fortissima. Grandissimo. Luca, io pardo. Tutti e due insieme in coro. L'abate. No, io dico, ragazzi, che Luca, devo dire che di calcio ne capisce molto. Mi sono confrontato anch'io in passato, e devo dire che con mia grande sorpresa ci azzecca. Certo, è stato molto lusinghiero. Conoscendo Telese, con tuo grande ottimismo della volontà di grandissima memoria. È stato molto lusinghiero nei giri sulla Roma. Alle brutte prende il premio Nicola Signorello dal nome del sindaco di Roma che fece il famoso giro di campo Roma-Lecce. Roma, sicuro lo sto detto, Lecce è già retrocessa e poi andò a finire male, ma non penso che sia il caso. Anzi, io quel posso rivedere, c'ero, ma voi siete dei calunniatori, ragazzi. Sì, siamo anche un po' bastardi, ma no, questo lo sai. No, io devo dire Telese, che penso che la cosa bella di questo incastro di sabato è che veramente Spalletti giocherà lui la partita della sua vita. Lui viene qui con tutta la cattiveria e tutto il rancore carismatico che lui è capace, lo dico in senso scenico, sono sicuro, scusa? È già dalla conferenza in senso spettacolare, cioè, ma certo, ma come è giusto che sia, una bomba, lui tira una bomba, sarà da vedersi la conferenza stampa di presentazione del match alla Moviola. Perché sicuramente tirerà due o tre cattiverie di quelle che fanno male. Ma speriamo, no? Tutti in questo mondo di omologati, almeno c'è gente come Spalletti, pardo, se no ci facciamo due pari. No, ma assolutamente. Poi è chiaro che per un momento, l'abbiamo detto tante volte, quindi sono anche passati mesi e cambiamo idea. C'è stato un momento nel quale, secondo me, l'anno scorso lui non so se abbia scelto di perdere un certo tipo di rapporto con l'ambiente, con la pianta, perché a un certo punto stava vincendo lui. Il bilancio di Spalletti alla Roma rimane assolutamente positivo, con, non è un dettaglio, qualche partita decisiva sbagliata, i derby di Coppa Italia, in particolar modo il primo, e l'eliminazione con Lione, potevano cambiare completamente il corso della stagione e farla diventare ancora più bella, però il secondo posto rimane ed è secondo me un grande risultato. È chiaro che a un certo punto c'è stato un cortocircuito, poi molto ruota attorno al nome di Totti, ma c'è anche una difficoltà di gestione con un certo tipo di ambiente di stampa romana, insomma, i fischi di Roma Genoa ce li ricordiamo tutti. Sì. Roma Genoa è stato, sembrava veramente Gesù o Barabba, un ballottaggio fra due figure, gli applausi per Totti e i fischi per Spalletti. Poi probabilmente molti tifosi della Roma Spalletti li avrebbero comunque tenuto, però si era arrivati a un punto di drammatizzazione di quello scontro per cui bisognava stare o da una parte o dall'altra, e quel giorno i tifosi della Roma, nel celebrare la carriera di Totti, hanno finito per fischiare l'allenatore che comunque li aveva portati, li stava portando al secondo posto. Quindi questo ti fa capire quanto teatro, quanta drammaturgia ci sia stata in questa vicenda qui. Certo. Al di là del fatto che invece secondo me il rapporto a Roma completamente affezionato, perché i risultati sono buoni, tant'è vero che c'è, credo, una parte dei tifosi della Roma che comunque Spalletti l'avrebbe tenuto. Avrebbe serenamente tenuto, sì, no? Però perché poi lì è stato creato uno strappo a un certo punto. Spalletti, esatto, è partito per una linea, poi non è più riuscito a correggerlo, a tornare indietro. L'ha un po' creato anche lui, eh. Forse in realtà era stanco e voleva andare. Quello che ti sto dicendo, cioè, a un certo punto è proprio partito per una direzione senza ritorno. Io chiedo invece a Tommaso Labate se con Spalletti si sente di nuovo guidato da un grande leader in panchina, e il precedente sai benissimo qual è, no? A chi mi riferisco. Allora, il precedente non parlo mai, cioè nel senso che considero la sua avventura con l'Inter finita, se parliamo ovviamente del precedente con la P maiuscola, la sera, esatto, Mourinho, la sera di Madrid, per cui queste grandi storie non tornano. Tu non puoi fare l'Orlando furioso e subito dopo tornartene con l'Oceano Mare, cioè è finita la grande avventura, quell'epica non esiste più. Quanto a Spalletti, io come dire, rimango col giudizio sospeso, e nel momento, visto che lo dico perché sapete che c'ho gli odiatori di Twitter che non ti rispondono, ma sono quelli che retweetano le tue cose del passato. Questa una volta Giuliano Ferrara, lo sport del cretino è quello di impiccare gli altri alle loro vecchie idee. Quindi faccio un invito pubblico a tutti quelli che sono in ascolto e che non sono tifosi dell'Inter di andare a cercare e di ritweetare il tweet in cui la sera del famoso Milan Roma, quando Spalletti non fece entrare Totti, io dissi non lo vorrei mai come allenatore. Ritwittatemelo, rimettetemelo di fronte e io resto con giudizio sospeso fino alla fine della stagione. Però la mano si vede già, perché è stato precampionato e ha soltanto una giornata. Però questa squadra qui ha una, è partita con una chiarezza di idee che non c'era l'anno scorso. Poi siamo anche probabilmente condizionati dal finale della passata stagione, perché lo scorso anno Pioli ha fatto bene per 6 mesi, per 4 mesi, quindi poi è molto difficile anche valutare quello che è successo all'Inter l'anno scorso. Veramente tipo Picasso, il periodo nero, il periodo bianco, il periodo beige, il periodo fucsia. Il finale però è stato drammatico e Spalletti la mano già la si vede, sì, ma anche mediaticamente ti dico una sola cosa. Una sola cosa voglio dire a Pierri: io sulla mano resto appeso alla nota dicotomia di Mario Breca. La mano può essere fero o può essere piuma. È stata fero nella prima giornata con la Fiorentina. Vediamo quello che succede dopo. Sì, però Tommy, una cosa è chiara, si vede anche la mano mediatica di Spalletti, perché è subito diventato capopopolo, è subito diventato trascinatore, è subito diventato uomo di comunicazione, è subito diventato leader del gruppo, e quindi questo è già una certezza. Poi il resto sul campo, calcisticamente parlando, è chiaro, hai ragione, giudizio sospeso. Io al momento resto il Civati interno di Spalletti, voglio fare quello che rompe le scatole fino alla fine per vedere come va. Sì. E con questa grande perla, ragazzi, vi devo salutare. Ciao, perché Tommy, devo andare a prepararmi per un matrimonio. È vero. Che apro e chiudo per tutti gli ascoltatori. Che tutti gli ascoltatori o ascoltatrici vagamente interessati, non è il mio. Voglio bene. Anche perché se no, io ero accanto a te a prenderti a schiaffoni fino all'altare. No, posso garantire che tutti e tre, sia Pier che Carlone che Luca, sareste e quindi sarete quando sarà invitato al mio matrimonio. Non è che siamo invitati, ci organizziamo noi il matrimonio tuo. Bisogna pure trovare una vittima. Un me fateci pensare. Non parlate male in mia assenza, vi voglio bene. Ciao Tommaso, stanne certo. Parleremo malissimo in tua contumacia, come sai perfettamente. Piuttosto, Luca Telese, noi matrimonio in ballo non ne abbiamo. Abbiamo già dato e ridato. Stiamo tranquilli e sereni. Ovviamente siamo vicini a Pardo e Signora. Voglio dirti, sei una delle vedove di Spalletti? No, non sono una vedova, perché penso che alla fine la sua bravura è superata solo dal suo narcisismo. E c'è un momento di ogni campionato, di ogni storia, di ogni racconto di Spalletti in cui il suo narcisismo manda in tilt tutto quello che la sua bravura ha costruito. Però voglio dire che di questa Inter della prima giornata ho ammirato, perché a me piace quando vedo queste cose, come Spalletti Totti ha inserito Borja Valero nello stesso modo in cui l'avrebbe voluto alla Roma. Sì. Ho trovato straordinario come ha rigenerato, rimesso a posto Brozovic e Perisic, che sono diventati i due acquisti, no? E quell'attacco l'Inter ce l'aveva già, faceva paura poter tirare Perisic, Brozovic, Candreva e Icardi, però con Spalletti li hai visti veramente cattivi e in grado di colpire. Quindi questa è l'abilità che io riconosco al personaggio, non c'è niente da fare. Dimmi un consiglio, perché qua è pieno di gente, dà un consiglio di Fantacalcio, Icardi. Cioè Icardi. Io pronostico Icardi capocannoniere, poi magari sbaglio, però mi sembra veramente arrivato a un livello di maturazione un po' come tesi, antitesi, sintesi, no? Lui ha avuto prima del grande talento giovanile, poi ha avuto delle fasi vero. Adesso mi sembra che, insomma, anche la questione della fascia capitano si sia risolta tutta sommata in una maniera più logica. Il famoso Inter Cagliari dell'anno scorso, che Luca ricorda molto bene, e mi sembra adesso un giocatore veramente risolto. A livello di stare, guarda caso, di twittare su Bandanara, su Maxi Lopez, su certo. Si è calmato, gli hanno chiuso i social, ecco. Meno male. Un'ultima cosa per Luca, che poi deve andare a lavorare per Radio 24 per domani mattina, e quindi non lo vogliamo trattenere. Non lo vogliamo trattenere. Allora, sorteggi di Champions, l'incubo peggiore. Guarda, sono tutte brutte. Dipende dai punti di vista. Non lo vedo. Siccome io penso che questo sia veramente un grande punto debole della Roma, cioè la Roma ha un complesso di inferiorità in Europa, penso che se gli capita la grande che ti ammazza, si sente liberata di responsabilità, per paradosso. Se gli capita la scartina fuori casa, la partita in Portogallo, che uno dice, ma sì, andiamo là a prendere tre punti, è la volta che prende botte. Quindi la Roma deve consolidarsi bene in campionato e superare questo complesso di inferiorità. Questo è l'unico grande limite di Francesco, anche Di Francesco non ha un'esperienza solare in Europa, quindi serve veramente, chi capita è un problema interiore della squadra, psicologico, che quando loro vedono il jingle della Coppa Champions e gli tremano le gambe. Sì, detto però questo, la fa per divertimento, cioè deve essere questo, divertimento, no? Questo vale sia per la Roma che per il Napoli, che sono in terza fascia. Prima e seconda fascia, secondo me, si equivalgono. Ci sono grandissime squadre, ce n'è qualcuna un po' meno grande, insomma. In prima fascia è inutile dirlo, fa Spartak Mosca e Shakhtar Donetsk. Se riuscisse a pescare, se o Roma o Napoli riuscissero almeno a pescare una di queste, sarebbe fantastico. In seconda fascia, in quel gruppo di squadre meravigliose, è chiaro che se riesci ad andare sul Porto, non è che sia facile giocare col Porto, col Siviglia, è meglio che se trovi il Barcellona. No, certo, anche se io continuo a pensare che il termometro è la terza fascia. Ma sì, anche per la Roma, Luca, dai, perché se ti capita un girone con Bayern e Barcellona, insomma, non lo so. No, questo sicuro. Ecco. È meglio se ti capita Shakhtar e Porto. Poi è chiaro, è vero quello che tu dici, cioè è vero che la Roma ha nella sua storia una sua umoralità e quindi una capacità di sorprendere, qualche volta in positivo e qualche volta in negativo. Però insomma il Porto è meglio del Barcellona, secondo me, anche se il Barcellona di quest'anno qualche problemino ce l'ha, però comunque va evitato, come l'ha evitato il Paris Saint Germain, secondo me, in seconda fascia. E in prima fascia sono tutte le campionesse nazionali. È chiaro che se riesci ad andare sulla Russia o sull'Ucraina, anche col Benfica, magari te la giochi, no? È più giocabile. Anche se continuo a pensare che il termometro sia sempre la terza fascia, il termometro del valore di un girone. Grazie, Luca. Roma e Napoli sono in terza fascia. Infatti, e questo vale anche per le altre. Ciao Luchino. Andiamo per parlare di Pier. Ciao. Ciao, sentiamo poi per parlare di Pardo, ovviamente, malissimo. Corrado, buongiorno, provincia di Massa Carrara, benvenuto all'Asilum, Gabbia di Matti, 800 24 00 24, sempre, ma oggi più del solito, dica. Allora, dunque, chiamo da Carrara e volevo parlare di Inter. Sì. Ecco, mi fa strano, no? Che io vado un momentino a monte, a maggio, la Sunning disse sulla Gazzetta che aveva 150 milioni da investire per il mercato. Subito dopo l'Inter si è buttata su Schick, dopo una settimana sembrava fatta, dopo un'altra settimana l'avevo preso la Juventus. Sì. Preso la Juventus, dopo sappiamo tutti come è andata a finire, l'Inter si ributta a Falco su Schick. E l'Inter Schick, tutti questi titoli qui, l'Inter Schick, e ora veniamo a vedere che sto Schick se lo chiappa la Roma. Volevo anche inoltre sottolineare i vari Salcedo e Pellegrini, erano dell'Inter, il colpo dell'Inter, Salcedo e Pellegrini, 60 milioni sono dell'Inter. Ora bisogna sapere che sono in mano alla Juventus. Sì. Vorrei capire, ma che stanno a fare? C'hanno questi soldi o non ce l'hanno? Allora, io facciamo... so che Suning fattura 5 miliardi di euro l'anno. Sì. Ha capito? Sì, cioè, non si venga fuori col dire che il governo cinese ha imposto dei limiti, quando vediamo che gli altri cinesi sconosciuti, emeriti sconosciuti del Milan, hanno speso più di 200 milioni. Volevo capire un po' com'è questa storia. Allora, facciamo così. Inter per domenica. E poi qui chiudo, forza Carrarese, che domenica inizia il campionato, non lo so se dici, che io seguo con altrettanto altrettanta passione, certo. La Carrarese. Allora, facciamo un patto, Corrado. Lei rimanga all'ascolto. Adesso, certo, adesso c'è la borsa e poi arriva Luca Marchetti, con cui proviamo a chiarire un po' di questi dubbi. 800 24 0024. Convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Sono veramente dispiaciuto perché con ragazzo c'è un ottimo rapporto e io credo che per Milan, giocare per il Milan, debba essere una gioia e non uno stress. Mi aspettavo qualcosina in più in questo senso da lui, ma vedremo come va a finire la vicenda. Gli auguro di guarire presto e intanto sono contento di avere qui chi non è stressato e chi è entusiasta di venire qui con noi. Allora, questo era ovviamente Montella su Niang, sul caso Niang, in questa che verrà ricordata come l'estate dei certificati medici, del medico della mutua, e in questa puntata meravigliosamente surreale di fine agosto, dopo Telese e Tommy Labate, non potevano mancare il nostro amico Luca Marchetti. Sei d'accordo, Pardo? mi pare chiaro, anzi stavo già in pensiero che non lo sentivo. Ciao, ragazzi. Niente, questa è storia, questa è storia del calciomercato, peraltro. Chi era Luca? Era Gianluca Berti, procuratore di Vieri, dove... con Vieri nell'estate, che doveva passare a Juve Milan, peccato alla Gallia, inseguito da me agli albori della mia carriera giornalistica Sky. E lui non parlava, gli andai sotto con il microfono senza fare domande, quindi non ci dice niente, mi uscì uno slang eternano che poi è diventato un po' il refrain di quell'estate lì a Sky. Niente. Luca, un'estate di molte successive, perché andiamo avanti, ancora lo ricordiamo, niente con questo affetto. No, è più famoso ed Esposito, ragazzi. Beh, chiaro. Luca, dato che ogni promessa è debito, quindi sì, noi siamo in debito con un ascoltatore che ha chiamato prima e che ha chiesto lumi sulla situazione dell'Inter, dicendo quello che tutti pensano e qualcuno osa pure chiedere, e cioè, allora, Suning dice qua ci sono 150 per il mercato, poi non riesce a prendere i ragazzini della Samp già promessi, non riesce a prendere Schick, non riesce a prendere nessuno, e tutti con calma si domandano, ma scusate, ci spiegate questa situazione, por favor? Ma intanto l'Inter ha speso quasi 85 milioni di euro sul mercato, e questo è un dato. La seconda cosa, che è un altro dato, lo parlava anche oggi il sindaco di Milano Sala nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, è che il governo cinese negli ultimi 6 mesi, e ne ha fatto le spese anche il Milan nel discorso closing, ha praticamente bloccato tutti gli investimenti esteri, soprattutto sul calcio. Questo non significa che non potranno essere più fatti, ma ci vuole un po' di burocrazia in più. Quindi il diktat che ha dato Suning ai suoi è: va bene, ci siamo, ci saremo sempre, continueremo ad esserci, in questo momento facciamo fatica a dover spendere più di quello che avremmo previsto. Sì, la domanda sorge spontanea, però allora perché i cinesi del Milan continuano a spendere e espandere come furie? perché sono riusciti evidentemente a portare i soldi in Europa prima, e poi perché una parte di questi soldi, come sappiamo, non arrivano dalla Cina. Non arrivano dalla Cina, mm-hmm. perché arrivano dal fondo Elliott. Certo, certo, certo. Quindi quelli sono liberi da ogni vincolo. Sono più è più facile accedere. Uh-huh. Sì, sono soldi che comunque vanno a un tasso di interesse che ben conosciamo, e conosciamo questa vicenda Elliott, eccetera eccetera. Mi sembra una spiegazione logica e razionale sulla quale credo Pardo. È stra logica, ed è però evidentissimo che è successo il contrario di quello che in tutti si aspettavano, io fra tutti, senso che comunque sembrava che l'Inter fosse molto più avanti da un punto di vista proprio di investimento. Poi, sì, probabilmente, sì, dal punto di vista delle certezze, l'Inter è altrettanto avanti, nel senso che la solidità dei proprietari dell'Inter è clamorosa, e certamente il closing del Milan è stato molto più farraginoso, molto più complesso, quello dell'Inter è stato molto più dritto, no? Però è evidente che l'investimento che qualche mese fa si poteva immaginare potesse fare l'Inter lo sta facendo il Milan, cioè la campagna acquisti, esatto, rivoluzionaria. Esatto, quello sto dicendo. Sì, ma quello credo, che... aggiungere una cosa, ragazzi, c'è il fair play finanziario. L'Inter è sotto fair play finanziario, certo, per i prossimi due anni ancora. Certo. Il Milan ancora no. Certo, e questa, Luca, è un'altra cosa che pesa. Questo è un altro punto. Da quello che abbiamo capito, è in una situazione praticamente perfetta nei confronti delle banche. E da quello sempre che abbiamo capito, ha fatto un po' all-in quest'anno, no? Cioè, ha deciso di prendersi un rischio, ha messo sul piatto una quantità di risorse che magari potevano essere quelle di 2 anni, 3 anni, 4 anni, per crescere subito. Ovviamente, se la cosa produrrà i risultati sperati, poi arriveranno i casi, e quindi andrà bene. In caso contrario, magari è un po' di investimento. Sì. Credo che sia molto, alla fine, molto semplice. È una strategia aggressiva, è una strategia basata sul rischio, però insomma mi sembra un rischio calcolato. Sì, sì, io aggiungo in maniera del tutto casuale il se ci sono le coperture finanziarie, ma queste sono cose mie. Se ci sono le coperture finanziarie, il Milan ha fatto un lavoro meraviglioso, sta facendo un lavoro meraviglioso. Me lo permettete? Non mi Montella, Narnia. No, vale per tutto l'universo. Pierluigi, vale per tutti, sia chiaro. E per tutti quanti ci arroghiamo il diritto di dirlo. Io almeno me lo arrogo. Bisogna dirlo per tutti, nel senso che o noi sappiamo che ci sono dei problemi, e non mi sembra questo. Non sentiamo più Pia. Perso. Non aveva la copertura neanche lui. Non aveva la copertura finanziaria, non ha pagato la bolletta. Errore da dilettante, Bluetooth della macchina. Dico, noi abbiamo in Italia dei grandi giornalisti di economia applicata al calcio, e uno su tutti è il nostro Marco Beninazzo. Ovviamente il giornalismo d'inchiesta è un giornalismo importante, devono farlo quelli che si occupano di queste cose dalla mattina alla sera. Sì. Se dovesse uscire fuori qualcosa di concreto e di serio, per carità, altrimenti vale il principio che vale per tutte le altre squadre. È ovvio, ci devono essere avversari, ma questo vale per la Roma, certo, per tutte quante. Il Milan ha un'esposizione con le banche praticamente pari a zero, ha una situazione finanziaria, come diceva giustamente Luca, molto positiva, nel senso che non ha problemi, e semplicemente ha preso un rischio. Quanta esposizione con le banche, chiedere a Elliott, quella è carta che canta. Cioè, il Milan si è esposto, e come è esposto, con chi le ha prestato denaro al club, e questo, anche questo, carta canta. Però andrei su quell'altro argomento che mi sta a cuore, perché io non ci ho capito una mazza, ve lo confesso. Luca Marchetti magari sì, Schick. Allora, Schick va alla Juventus. Poi mi dicono, ha problemi fisici, che ovviamente rimangono coperti da ovvio segreto, e quindi non bisognerà attendere l'apertura degli archivi di Stato come per il caso Kennedy. Ritorna al mittente, poi lo vuole l'Inter, poi lo vuole la Roma, di cui Ferrero è tifoso, ma soprattutto Ferrero vuole il grano ora e qui. Morale, la sora Camilla, tutti a Vonno e nessuno, Luca, a Biglia. Mi sembra che tu abbia capito tutto, però non ci sia una parte non troppo chiara di quello che è successo. Ti aggiungo altre variabili: l'estero, il Paris Saint-Germain e il Monaco, qualora dovesse il Paris Saint-Germain invece andare a prendere proprio dal Monaco Mbappé, perché è uno dei profili che sono stati seguiti. In questo momento Schick è il giocatore sul quale c'è una, quell'effetto asta che non si è verificato in altri giocatori, che generalmente fa le fortune di chi vende. Roma e Inter se lo stanno contendendo, la Juventus ha provato a tornare sotto al giocatore, ma non credo che in questo momento sia in testa alla lista delle preferenze di Schick. Da quello che sappiamo noi, leggera preferenza da parte del giocatore per l'Inter, sempre da quello che sappiamo noi, leggera preferenza da parte della Samp per l'offerta della Roma, che è strutturata in maniera più vantaggiosa rispetto a quella dell'Inter, quando tutto sommato poi alla fine si parla di 37 da una parte e di 38 milioni dall'altra. Quindi siamo veramente alle incollature di cui si parla quando corrono i cavalli. Gli unici che ne trarranno un vantaggio, almeno nel brevissimo periodo, sono i procuratori di Schick, che continuano ad andare a cena e a pranzo fuori con chiunque. Pagano gli naturalmente altri. Naturalmente, immagino, non pagando. Bravo Luca. Senti, ti chiedo un secondo di pazienza, perché ho il traffico, ma vorrei levarmi con te un ultimo dubbio che riguarda la Juventus, se me lo consenti. Traffico. Certo. I love this game. Tutti convocati. Convocati. Allora, prima di andare sulla Juventus, appunto, volevo chiedere a Pardo se ha qualcosa da aggiungere sul caso Schick. No, a parte di fare Luca l'abbia spiegato in maniera pacifica, insomma, è molto semplice, cioè, nella sua complessità, nel senso che non sappiamo come andrà a finire, però mi sembra molto semplice, nel senso che c'è appunto una leggera prevalenza per l'Inter da parte del calciatore, una leggera prevalenza della Samp per l'offerta della Roma, siamo lì. La Roma ovviamente è tornata su Schick dopo che ha capito che Mares non era possibile, il tipo di investimento che secondo me ci sta, che dal punto di vista tattico potrebbe aprire anche qualche scenario interessante per Di Francesco, quindi per me è un grande giocatore. Chi sì. lo prende fa quella cifra lì, secondo me lo paga il giusto. Perché certo, sono d'accordo. È una cifra importante, non so, più di 25 milioni di qualche tempo fa, però io sono abbastanza convinto che il giocatore ci sia e ha dimostrato già di avere un talento veramente scintillante. Certo, con quel filo di mistero di incognita che riguarda la Juventus e quelle visite mediche. Però appunto per chiudere sulla Juventus, volevo chiedere a Luca Marchetti che la storia di Marchisio, che ieri si è postata solito social sì. network, lui con la mano, cos'è, la mano sul cuore che bacia la maglia, mi ricordo più. Mano sul cuore, va bene. La storia di Marchisio. Continuo a sottolineare sempre che questo è l'anno dei mondiali, ragazzi. Questo vale per tutti i nazionali del mondo. Quindi è una cosa da mettere a tenere sempre presente quando parliamo di mercato. Luca. Guarda, la storia di Marchisio, anche qui forse è molto più semplice di quanto ce la vogliamo raccontare. Alcuni dei nostri colleghi hanno raccolto probabilmente un malumore da parte di Marchisio, che forse non è neanche troppo recente, nel senso che non affonda nella notte dei tempi, non è neanche dell'altro ieri, in cui in un'ottica di comunque cambiamento della Juventus, perché la Juventus ha fatto delle scelte quest'estate. Intanto ha confermato un allenatore nonostante una delusione, e secondo me lo ha fatto in maniera corretta. Questo comporta anche delle scelte per quanto riguardava il mercato, perché probabilmente sapevano che se fosse arrivata un'offerta per Bonucci come poi è arrivata, non si sarebbe stracciato le vesti per andare via o per rimanere. La Juventus ha cambiato molto, ha investito molto, perché se tu vuoi guardare la rosa degli 11, lascia perdere le due formazioni che ha fatto Allegri nelle prime due partite ufficiali, ma la Juventus ha speso 140 milioni sul mercato. Significa che ha cambiato molto. In un'ottica di cambiamento ci può stare che un giocatore come Marchisio, che è sempre stato considerato fra i titolari ma forse non fra i titolarissimi, possa aver avuto dei pensieri di guardarsi intorno. Totalmente legittimi a mio parere. Totalmente non credo legittimi. Che andrà via, anche perché ormai mancano 7 giorni alla fine del mercato e un trasferimento come quello di Marchisio dalla Juve non si mette in piedi, secondo me. Poi nel calcio ci hanno insegnato che può succedere di tutto. In 7 giorni mi rimane difficile credere che, come qualcuno diceva, ho letto non so se sui giornali o su internet, che potesse andare addirittura al Milan, che nella stessa sessione di mercato due comunque uomini chiave per la Juve, almeno a livello di immagine, possano andare in rosso-nero. Secondo me, se Marchisio mai dovesse lasciare la Juve, andrà all'estero, non succederà quest'estate. Sì, chiarissimo. Prende un centrale la Juventus? Non è detto, non è scontato, prenderà certamente l'Inter un centrale. La Juventus lo sta cercando, se trova quello che gli piace, come Aguedes, che piace anche all'Inter, però allora sì, se no resistono fino a gennaio per continuare a cercare sul mercato. Uno tanto per prenderlo, la Juve non lo prende, forte di quello che è successo nel passato, ce lo siamo già detto forse. Juventus, un giocatore per fare numero nella rosa, non lo prende, perché quando l'ho preso gli allenatori di turno non l'hanno mai fatto giocare, quindi te lo prendi a fare? Sì. No, giustissimo, corretto, grazie numericamente, Luca. Ciao Luca, numericamente Carlo, i centrali della Juve bastano, nel senso che la Juve ne ha quattro. La Juve ha quattro giocatori, quindi il famoso la famosa doppia chance in ogni ruolo, la Juve ce l'ha. È chiaro che la personalità di Bonucci, la qualità in fase di impostazione, l'esperienza non è facilissima, però questo è un discorso che vale a prescindere. Io credo che se tu pensi che Rugani è sicuramente un giocatore che ha delle prospettive, questo è il tempo. Questo è il tempo in cui deve fare questo tipo di passo avanti. Sì, anche perché sono due anni, è arrivato due anni fa, fatto due anni di panchina. Ancora, volendolo poi tranquillamente girare a chi ti pare. No, sono ancora quattro centrali di grande affidamento. È chiaro che Bonucci, cioè Bonucci è stato ed è un fuori classe, quindi chiaramente è molto meglio averlo che non averlo, però in assoluto da un punto di vista numerico secondo me la Juve è coperta, sono d'accordo. Allora facciamo qualche ascoltatore, Pierluigi, prima di salutare la compagnia. Simone, buongiorno. Arezzo, buongiorno. Sì, esatto, Arezzo, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Senti, io per l'appunto volevo fare proprio una domanda riguardo al calciomercato della Juventus, se l'avete anticipato, perché vi stavo seguendo, era proprio sul centrale di difesa che la Juve sembra, da quello che si sente, che dovrebbe prendere, che a mio avviso non è necessario, e vi chiedevo a voi, secondo voi per la rosa che ha la Juve è necessario un centrale di difesa? Quanto può dare Rugani più che Benacchia? Perché è su quello che poi uno punta, perché se poi uno deve prendere un giovane, farlo crescere, poi praticamente il centrale simbolo va via e prendi un altro di 30 anni, secondo me non ha senso. Sì. Anche se punti sui giovani. Cinque erano troppi. Comunque, insomma, con 5 c'era un po' l'imbarazzo della scelta, per difficile farli votare e dare. Ha già preso Caldara il prossimo anno. Appunto, quindi a questo stavo dicendo. Ripeto, è chiaro che un margine di rischio c'è, perché una partenza come quella di Bonucci, c'è anche al di là del fatto che comunque il giocatore non più giovanissimo era stato pagato tanto, quindi dal punto di vista economico monetario sta come operazione. È evidente che il giocatore come Bonucci non è facilmente, c'è la possibilità che tu non riesca a rimpiazzarlo con altrettanta qualità, perché è un giocatore quasi unico, no? Come caratteristiche in quel ruolo lì, quindi è come Dybala lì davanti, no? Non è che tu lo sostituisci facilmente, o come Icardi per l'Inter, che è la differenza, una delle differenze della Juve. Quindi il punto interrogativo ci può stare, però ripeto, non è che la Juve ha un problema oggettivo né numerico né qualitativo in quel ruolo, perché certo, la Serie A, e probabilmente la partenza di Bonucci potrà anche essere utile per farli sforzare. Sì. E detto questo, non dimentichiamo mai che c'era qualcosa di rotto e di incrinato tra Bonucci e Allegri, probabilmente il gruppo, e quindi questo fa parte del pacchetto che poi il Milan ha comprato e pagato prezzo alto, forse giusto, ma comunque alto. Allora, Giuseppe, provincia di Lecce, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Io avevo due domande, una per Marchetti che da quanto ho capito non è più in collegamento, giusto? No, ma se vuole rispondiamo in contumacia, dica. Come no, per Pardo allora, per vado Pardo direttamente su Pierluigi. E la domanda era se per aggiungere un ulteriore tassello sull'ipotesi Chic, se Nedved potesse in qualche modo essere in questo momento ancora l'ago della bilancia e che può tendere a favore della Juventus, lato trattativa. E poi per quanto riguarda Spalletti, e qui c'è bisogno di fare chiarezza e soprattutto di essere onesti. Secondo me l'anno scorso Spalletti non ha fatto un buon lavoro, ha fatto uno straordinario lavoro, nel senso che ha ottenuto il record di punti in una piazza difficile, ha gestito semplicemente a suo modo Totti, e il pubblico di Roma ha scelto Totti, ha scelto la linea contraria a questa gestione e ha fischiato l'ultima giornata un allenatore che, se non fosse stato per la straordinaria prestazione della Juve, avrebbe portato lo scudetto a Roma. Sì. È stata una scelta della tifoseria e nessuno lo dice. Secondo me hanno perso un'occasione. No, attenzione, nessuno lo dice, non lo diranno gli altri. Noi abbiamo finito di dirlo 20 minuti fa. Però io penso che Spalletti, diciamo, se Spalletti avesse voluto non alimentare questo conflitto, questo contrasto, avrebbe potuto comportarsi in maniera diversa. Cioè, secondo me Spalletti, ma ce ne sono mille esempi, questo tipo di scontro, questo tipo di dialettica ci si è buttato dentro. Certo, chiaro. Oggettivo, ci ricordiamo le conferenze stampa, le volte in cui a domande generiche su, magari sul suo contratto rispondeva col contratto, sul contratto di Totti, il famoso scontro con qualche giornalista. No, ma ci sono episodi. Poi per quanto riguarda il campionato, io sono d'accordissimo. Io l'anno scorso avevo pronosticato il Napoli secondo, cioè per me il Napoli comunque l'anno scorso era la seconda forza del campionato, la Roma la terza, la Roma è arrivata seconda e ha fatto una stagione di altissimo profilo con l'unica macchia delle due coppe dove un po' ingenuamente è uscita, poi tra l'altro in una presenza della stessa settimana con una serie di partite probabilmente complice anche la stanchezza, vi ricordate, no? Inter-Roma, poi certo, il derby, poi il Napoli e poi la Lazio, quindi veramente un tour de force incredibile, anche l'allenatore sia di altissimo profilo, non c'è dubbio, e quei fischi all'ultima giornata, lo dicevo 20 minuti fa, dal punto di vista tecnico sono fischi generosi, perché Spalletti è stato un ottimo allenatore della Roma, però è anche non chiaro, sono stati fischi tecnici, è chiaro, no? No, non sono stati fischi tecnici, lì veramente diventava con me o contro di me, o da una parte o dall'altra, come il ballottaggio fra due candidati alle elezioni politiche, è diventato un duello fra due uomini, sì, e due personalità. E la cosa però secondo me strana è che Spalletti la sua battaglia già l'aveva vinta, perché Spalletti lo scorso anno Totti lo fa giocare pochissimo, giustamente anche, perché comunque, voglio dire, ci sta pure che Totti potesse giocare poco. Totti non fa polemiche lo scorso anno, ricorderete, a parte la famosa intervista di Ilari, dalla quale poi esce molto bene Spalletti, CD, piccolo uomo, tutto si era ricomposto, tutto si era risolto, e poi improvvisamente da febbraio in poi invece mi è sembrato che stanno quasi Spalletti a cercare lo scontro. Sono d'accordo, ma io come ti ho sempre detto, lo so Pier, ma io come ti ho sempre detto ne ho sempre fatto una questione di comportamento nei confronti di un giocatore come Totti. Adesso siamo in chiusura di programma e non andiamo a riaprire certi discorsi, però a me dà fastidio vedere Totti trattato come l'ultimo dei bambini della primavera. Ti scaldi, entri a tempo scaduto. Questo, secondo me, è stata una mancanza di rispetto, premeditata oppure no. Ok, dipendente, pagato, fai quello che dico io sono allenatore e tu ti comporti di conseguenza. Bisogna fare delle proporzioni, dei limiti. Questo valeva anche per Del Piero. Comunque, lunghi discorsi che magari riprenderemo magari domani. Ciao Pierluigi Pardo, buona giocata. Ciao Giaverino. Io mi fermo qui. Gianmarco Ferronato in regia, Claudio Schiattone il nostro autore, Giulia Auricella che ci ha ascoltato ogni giorno con nostro grande piacere. Ciao. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.